A pane, burro e rock and roll, sono le 8 quasi precise. Ma chi lo sa poi? Pane, burro e rock and roll. Noi non siamo precisini. La tua colazione. Inizio della seconda ora di diretta. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Benvenuti anche a voi appena svegliati. Vi siete persi una grande prima ora di diretta, ma ne inizia un'altra fresca fresca di stampa. In molti chiedono com'è andata l'acquisto del nostro papà rock Daniele, che ieri doveva comprare una chitarra per suo figlio. Ragazzi, non lo so io. In realtà non mi va tanto di disturbarlo, cioè non è che posso telefonare alla gente alle 8 perché voi ci avete delle domande. Oppure dite che siamo una squadra, quindi si può? Vabbè, ci penso. Intanto il film della settimana, il test attitudinale, purtroppo mi sa che ci saranno le parole ribelli, insomma, parecchia carne da gettare sul barbecue di pane, burro e rock and roll. Antenne come se fosse di scappellamento, terapia tapioca, scappellamento di forestieri. Vabbè, siete forestieri, ma i cartelli di vetro sono nazionali. Guardi, mi dia la patente, per favore. Ecco. Grazie a lei. Lei è il signor Verdirame Augusto di Brescia? Sì, è Verdirame. Io mi chiamo Necchi. Necchi? Allora questo non è la sua patente. Mi faccia vedere. Guardi, guardi. Ma questo è un mistero. Aspetta. Non l'avevi dimenticata a casa? Su, ricostruisci con calma, da qua. Ricostruisci? Io a Porta Prato mi sono accorto di non avere la patente. Sono tornato a casa. Ho claxonato parecchio perché la mia moglie poverina dormiva. E poi ho detto di buttarmi il portafoglio. Ma buttato il portafoglio e... Oh, ma guardate, è un mistero davvero questo, Ma scusa, di solito dove lo tieni il portafoglio? Dove lo tengo? Nella tasca posteriore dei pantaloni, come tutti. E i pantaloni, quando te li togli, dove li metti di solito? Dove li metto? Sulla seggiola, accanto al letto, come tutti. Appunto, come il signor Verdirame Augusto, da Brescia. Cosa c'entra? Il signor Verdirame Augusto li metterà sulla seggiola, accanto al suo letto, a Brescia, a casa sua. Quando è a Brescia, sì. E quando è a Firenze, li mette sulla tua seggiola. Mi sembra tutto chiaro, no? Beh, vede, signora guardia, scusi, lei avrà capito, si tratta di un caso delicato, molto comune, sì, ma delicato. Scambio, sì. Sì, sì, vista la situazione, chiudiamo un occhio. We'll be right back. Troppo grosso successo sta avendo una rubrica fortemente voluta da Roberto Fricantoni, le parole ribelli che tanto le piacciono. Ma non piacciono a lei, no, dica la verità, no. DJ Ariele. Mi piaciucchiano, via. Che cos'ha contro le parole ribelli? No, niente, non vorrei cadere nella volgarità, sa, a volte scappa il piedino, ma se c'è la bandiera della cultura a coprirci. Certo, sempre la cultura innanzitutto. E allora va bene, se la sente andiamo con la parola scelta quest'oggi, la parola rock. Ricordando che qualche giorno fa abbiamo parlato di mazzo. Mazzo, sì. Direi di passare senz'altro oggi alla parola cazzo. Ah, ecco, perfetto, ottimo, no, ha fatto benissimo a dirla, vada. L'etimologia del termine deve sapere che è incerto. Ah. Sarà sollevato allora. Sì, abbastanza. Potrebbe essere una contrazione di capezzo, da capezzolo, quindi un piccolo capezzolo, ma chi lo sa, derivato a sua volta dal lemma di lingua latina capitium, sul calco di caput, capo. Ah. Quindi potrebbe significare piccolo capo. Testina. Testina, perché no? Testina, testina. Di, va bene, testina, okay. Di. Ugualmente potrebbe essere derivato da cassus, che sempre in latino indicava l'albero maestro. Ah, che ci sta. Sì. Sì, che è un termine che in nautica è proprio riferibile a quell'albero principale. Non faccia, no? Gesti, ho capito. Sì. Ecco, a quest'ultimo aspetto quindi potrebbe far riferimento il nome volgarizzato dell'organo, esatto, riproduttivo, sì, maschile. L'ho capito. Ma ci sono altre ipotesi, sì. Altri ipotizzano che la parola in questione, sì, derivi da cazza, che è la gazzaladra, ah, okay, uccello chiamato anche pica, sì, si badi bene, pica con la P, perfetto, e non con la, sì, F, sì, certo, sì, ecco. Termine che sarebbe anche coerente, certo, in qualche, sì, modo, sì. Termine che rappresenta una delle tante denominazioni dialettali che indicano il membro, eccolo, virile, là, ancora, mentre, sì, l'ipotesi, sì, e qui finisco e qui termino, l'ipotesi più accreditata dai linguisti è che l'espressione cazzo derivi da cazzare, l'equivalente di cacciare, ficcare in molti dialetti settentrionali. Cazza la randa. Può essere anche, avrei tanto voluto saperlo. Grazie maestro, ora lo so. È un piacere. E beh, che c'è? And it all di Fleetwood Mac con Gypsy, 8 e 12 minuti primi. È con molto molto piacere che presento ai radioascoltatori di questo orario il Lampione Crepuscolare. Voi non sapete chi è, che cos'è il Lampione Crepuscolare, perché di solito ne parliamo nella prima ora. È un lampione che abbiamo qui davanti, fuori dalla finestra degli studi di Rock FM. Dopo mesi e mesi che il vostro Ariele parlava a vuoto con lampione acceso, che a un certo punto si spegneva, abbiamo scoperto che era crepuscolare, grazie alle segnalazioni dei radioascoltatori. Di solito verso le 7.20, 7.30 si spegne, oggi ragazzi è ancora lì, Una Milano oscura, quella che ci accoglie quest'oggi. Il Lampione Crepuscolare è ancora lì, forse per quello che ho più forza del solito, perché è lui la nostra luce, il nostro faro. Allora, vediamo di fare un po' di ordine, se ce la si può fare, in questa 116esima puntata. Io ragazzi sono orgogliosissimo. Abbiamo lanciato un sondaggio democratico. Vi abbiamo chiesto di schierarvi pro o contro Halloween. Quindi a favore di una festa che comunque ha dell'immaginario rock, oppure contro, perché noi di Pane, Burro e Rock'n'Roll dobbiamo essere contro in ogni caso. È impressionante A, il numero di messaggi che stanno arrivando, B, il fatto che siete tutti nella stessa opinione, tranne pochissimi. Non vi dico che cosa state votando, anche perché così vi viene la carogna e pensate, ma io sarò quello che ha fatto un poco la risposta sbagliata o sarò come tutti gli altri? Chiedetevelo, lo scoprirete nel corso della trasmissione. Mentre, aggiornamenti sui nostri inviati. Allora, calendari di donne nude. Luca, il nostro edicolante di Campi Bisenzio, dice che non ne sono usciti, quindi non abbiamo donne nude. Io avrei in caldo, se mi concedete il termine, un amico che ha fatto un calendario nudo, però visto che l'abbiamo già fatto l'altro giorno, eviterei di proseguire sul filone homemade di maschietti nudi. Quindi se c'è qualcun altro che ha qualche immagine da raccontarci per quanto riguarda calendari di qualsiasi tipo, anche Rosy che ha i maschietti nudi, aspettiamo, se no facciamo una tripletta di maschietti nudi, non vorrei che questa trasmissione diventasse troppo gay friendly. E poi cosa abbiamo? Il nostro patentato 147, che è da lunedì che sta ascoltando una radio concorrente a quest'ora del mattino per carpire i segreti, machiavellicamente parlando, della concorrenza. Il nostro buon Andrea, chissà se ce l'ha fatta a resistere fino a mercoledì, lo scopriamo insieme? Ma sì dai, restate qui con noi. 335-100-7777, avete qualche calendario sotto mano? Oppure siete a favore o contro Halloween? Climbing up on Salisbury Hill, I could see the city light. Wind was blowing, time stood still. Eagle flew out of the night. He was something to observe. Came in close, I heard a voice. Choice. I did not believe the information. Just after con Peter Gabriel e la sua Salisbury Hill. Io, vabbè, ho fatto i complimenti a tutti voi là fuori in maniera molto nazional popolare, così, mi sono incartato, che scemo. Popolanamente, ecco, facciamo così. Ma io i complimenti li devo fare a uno in particolare di voi. Uno che nel suo portafoglio c'ha pure la patente da vero rocker. Si chiama Andrea, la sua patente è la numero 147 e ad oggi, devo confessarlo, tra i vari inviati, radioascoltatori e radioascoltatrici, è sicuramente il più fedele, pronto al sacrificio. Lui ascolta la concorrenza ed è qui con noi. Ciao Andrea! Ciao Ariele, è uno sporco mestiere, ma qualcuno deve pur farlo. Bravo, così mi piace. Allora, tra l'altro sei l'unico che soffre anche per il compito che si è preso. Sì, parecchio, perché comunque mi sto ascoltando di quelle cose allucinanti. Allora, da lunedì ti stai ascoltando? Radio Z. Ok, ricordo per chi non lo sapesse, noi vogliamo vincere la gara degli ascolti e per questo prendiamo la cosa molto seriamente e studiamo la concorrenza. Radio Z, che musica mi fa? Via. Allora, Radio Z, la radio di famiglia si definisce, è una radio che trasmette musica da ballo. Ma da aspetta, ferma un attimo, la radio di famiglia nel senso che è stata fondata da una famiglia o nel senso... Si pone come la radio per le famiglie. Diciamo. Però è pericoloso, perché potrebbe anche essere la radio da famiglia. Questo è di Treviglio però. È di Treviglio, allora no. Quindi, non ci possono essere accezioni mafiose nella cosa, ok. No, vabbè. Penso di no. La radio di famiglia, musica? Musica da ballo, orchestra, musica italiana classica, anni 50-60. Lì non si può dire niente, sono scelte editoriali, li stracciamo, cioè noi abbiamo musica buona. Direi che questo non è il nostro... Non è il nostro campo, quindi lì esatto. non li possiamo né copiare né prendiamo le distanze dalla musica da ballo, diciamo. Ognuno è libero di scegliere, ecco, mettiamola così. Dimmi. Sì. Francesco Nava e Daniele Invernizzi sono i due conduttori fantastici. Nome e cognome però, perché è famiglia. Sì, chiaro, certo. Ci sono pseudonimi. Certo. Sarebbe troppo rock. Cosa mi combinano? Ma allora, loro facevano una splendida rubrica con degli ascoltatori che segnalazioni di ascoltatori per festeggiare degli anniversari di matrimonio. E quindi io ne ho annotati due. Uno è un ascoltatore praticamente che ha segnalato... Perdonami di segnalare che allora il target d'ascolto per gli anniversari di matrimonio è un po' più alto del nostro. Diciamo un pelo di sì, anche se si tratta di anniversari non proprio di 2-3 anni, di festeggiamenti un pochino più importanti. Ah, ho capito. Quindi per la nostra... Ho capito, va bene. Giusto. E quindi, c'era l'anniversario di matrimonio di Loretta e Peppino, di Voghera. Sì. E erano delle domande, come vi siete conosciuti, queste cose molto, molto particolari. Gli auguri sono fatti da Eraldo e Ada, che sono i figli. I nomi sono... sembra che siano fatti apposta, quindi non mi auguro di sì, insomma. Ho capito. Tra l'altro proprio oggi iniziamo a preoccuparmi che anche qui iniziano a chiedere compleanno, fammi gli auguri, non farmi gli auguri. Secondo te dovremmo farlo un po' pericolosamente verso questo genere di radio? Appunto. No. Potremmo carpire dei consigli, no? Quindi potremmo accettare gli auguri di compleanno solo se fatti da il fratello e la sorella, è chiaro, cercare di limitare un po', chiudere un po' il cerchio. Cioè, se sono un gruppo di persone numerose e con nomi strani. Sì. Potrebbe essere questa la clave. Le domande anche del conduttore sono particolari, nel senso che un'altra segnalazione che festeggiava Simona e Gigi, sostanzialmente ci racconti come vi siete conosciuti e va bene. E quindi è vero amore. Tra l'altro fa una gaffa anche sull'età. Tipo? Ma praticamente, dato che questi qui in sostanza, questa ragazza aveva 38 anni, sì. Allora c'è stato un po' un diverbio sul fatto che comunque si sposava non troppo presto. E allora, gli dava della babbiona. E gli chiese quindi avevo amore, questa qua poveraccia. ho capito. È costato molto il matrimonio, anche questa è stata posta dal conduttore, mitico. Perché interessa il prezzo del matrimonio. Sì. E ultima domanda fantastica, il vestito com'è se c'è la scollatura? Cacciaroni però anche loro. Esatto. Andrea, facciamo così che andiamo troppo lunghi. Tu continua ad ascoltare Radio Z, ti lascio con il mio classico dubbio. Sì. Io quando vado a fare le serate, quando vado in giro a suonare col mio furgone, spesso e volentieri incrocio un pullman di Radio Z, sono sicuro che è di Radio Z, dove sul retro c'è una gigantografia di un biondino. E sotto c'è scritto la voce ufficiale di Radio Z. Scopri chi è e perché c'hanno un pullman loro e io no. Ok, prendo e vado allora. A presto Andrea, resisti. Ciao Ariele. Nothing that is wrong, wanting you to stay here with me. I know you've got somewhere to go, but won't you make yourself at home and stay with me? And don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? So soon. I've been trying all night long just to talk to you. Sun ain't nearly on the rise. We still got the moon and stars above. Underneath the velvet skies, love is all that matters. Won't you stay? Me. Don't you ever leave. Lay down, Sally. I'm resting in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally. And no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. Lemme lemme, sì. piano piano, siamo così arrivati al test attitudinale. Ci arriviamo tutti i giorni, per fortuna. E infatti anche oggi siamo al Sancta Sanctorum di pane, burro e rock and roll. Una domanda, tre possibili risposte. Due bei punti per la vostra patente di autentico rocker. Oggi parliamo di Gene Simmons. Di chi, scusi? Gene Simmons, storico bassista e voce della premiata formazione dei Kiss. Oltre a essere famoso per la sua sfrenata passione per le donne e i soldi, il buon Gene è diventato famoso anche per una sua peculiare particolarità fisica. Ricordate quale? Ipotesi A, la lunghezza della sua lingua. Sarà questa? Ipotesi B, la lunghezza dei suoi piedi porta infatti un 52 di scarpe, cosa che gli crea non pochi problemi per la costruzione delle sue celebri zeppe che indossa nei concerti. Eh beh, complimenti al 52 di scarpe, sarà forse questa? Ma passiamo all'ipotesi C, ultima, la lunghezza del suo membro. Aia. Aia, testimoniata da un calco in gesso che ovviamente il buon Gin non disdegna, per usare un eufemismo, di mostrare in ogni occasione. E allora perché è famoso Gin Simmons? Per la sua lingua, per i suoi piedi o per il suo strumento? E non mi riferisco al basso? La risposta, come al solito, ve la diamo dopo, la soluzione a tra poco.